Radio Wombat. Thank you. Condizione dell'esistenza stessa dell'uomo, la tecnica del contare si presenta nella preistoria come giusta posizione di oggetti o di immagini tolti dalla vita quotidiana. Thank you. Sai su Radio Wombat. Questa è Radio Wombat. Radio Wombat. 8 Hertz.